Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Marco Tardelli, toscano, 60 anni, 5 volte campione d'Italia con la Juventus, campione del mondo nell'82, giocatore prima, allenatore poi. Sara Tardelli, figlia di Marco, autrice televisiva, radiofonica, conduttrice della Giostra del Gol, programma sul calcio per gli italiani all'estero, del Processo del lunedì, oggi anche autrice del libro Tutto o Niente, la vera storia di Marco Tardelli, raccontata appunto attraverso gli occhi della figlia. Tutto comincia con l'urlo più famoso del calcio italiano. Scirea, Tardelli, gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol, è finito, campioni del mondo. Campioni del mondo. Sono i 175 fotogrammi che hanno regalato a Marco Tardelli un posto nella storia del calcio mondiale. Ecco Marco, nel libro tu hai detto a Sara che quell'urlo è stata la scossa elettrica che ha cancellato la tua vita, cioè? Beh, in realtà poi è rimasto solo quell'urlo della mia vita, perché dovunque vado mi chiedono solo di fare solo di quello. Ha detto addirittura che non c'è un prima e non c'è un dopo, insomma un incubo. È abbastanza, sì, alla fine è diventato un incubo, però un bell'incubo. Ecco. E per te Sara cosa rappresenta quell'urlo? Rappresenta uno stimolo. Guardo quell'urlo e dico: bisogna devo lavorare lì, duro. Per arrivare lì, ecco Marco, tu hai sperato che nella tua vita tornasse un momento così oppure ti sei rassegnato? Ma è difficile che possa tornare un momento del genere. Mi sono rassegnato, ho tentato di lottare per fare bene sempre, ma è molto difficile. Senti, ma anche l'amore per il calcio è finito un po' lì o no? No, assolutamente. No. Il calcio giocato è sempre stato un grande amore per me. Senti, però anche oggi, se uno pensa all'Italia campione del mondo, in realtà pensa ai mondiali, a quelli lì. Pensa ai mondiali dell'82, non so perché. Perché? Hai una spiegazione? Io credo che fossimo una squadra speciale, una squadra che poi è cresciuta durante i mondiali grazie a un maestro di vita e di calcio. E poi anche perché eravate un po' soli contro tutti, no, all'inizio? Sì, questo è anche... Ti ha aiutato questa solitudine? Assolutamente ci ha aiutato, e ci ha aiutato il nostro allenatore Enzo Berzotto, che ci ha portato veramente a essere un blocco unico. Ecco, comunque certamente qualcosa di profondo di quell'urlo è rimasto, perché se hai deciso di scrivere con tua figlia Sara il libro Tutto o Niente, perché quel titolo Tutto o Niente? Perché sono sempre stato uno, anche negli errori, che volevo o la verità o non la Insomma, verità. Radicale. Ero molto radicale nelle scelte. Senti, ma è stato più difficile farlo quel libro o decidere di farlo? È stato più difficile farlo, perché mia figlia è particolare. E per te Sara com'è stato? Allora, è stato più difficile farlo, anche perché, sai, all'inizio siamo partiti che lui voleva scrivere un libro ma senza parlare di sé. Quindi, era difficile. Quindi l'inizio è stato molto po' complicato. Difficile. Ecco, ma metterti, Marco, metterti completamente a nudo davanti a tua figlia, che cosa ti ha insegnato? Ma ho avuto il coraggio di mettermi a nudo, a parte che mia figlia sapeva molto di me, qualcosa gli avevo nascosto per dire sì, la verità. Sì. T'ha tolto qualcosa, t'ha tolto un po' di mistero agli occhi di Sara? No, io credo che Sara sapesse tutte le cose, però faceva finta le di nefandezze. Faceva ecco, finta di non saperlo. Ecco, tu Sara hai scritto: ho affondato la penna nella sua carne e ha dovuto rispondere a tutte le domande che restavano in sospeso tra di noi. Beh, sì. Sì, erano tante, eh? Dice di no lui. No, è vero, erano alcune, perché a certe mi ero data una risposta da sola negli anni, quindi avevo fatto già un po' di lavoro precedentemente. Sì. Era giusta, ma ho scoperto delle cose che francamente non immaginavo. Senti, di però lui. Però in questa frase che dici c'è un tono quasi inquisitorio, sì, quasi sadico. Dico nelle tue parole, mi sbaglio? Eh beh, è perché quando hai tu la penna tra le mani comandi. Certo. Che male. Tu Sara dici nel libro, dici che tutto è stato così passionale, feroce, imbarazzante, molto divertente, a cominciare dal dovere suo di raccontare a te figlia le sue tre mogli. quel racconto è stato più imbarazzante o più divertente? Divertente. Perché? Divertente perché lui, che non è diciamo abilissimo nella dialettica affettiva, si è dovuto sforzare, perché un po' tra bastone e carota, no? Ho cercato di tirargli fuori il lato più romantico e anche più fragile in qualche modo. Ma suo. Hai sentito la sua resistenza a confessarsi? Ho sentita sì, molto. Molto, abbiamo litigato. Siete molto. Siete arrivate le botte. Sì, quasi, gli dicevo sembriamo Nicole Kidman e Tom Cruise in Eyes Wide Shut, che dopo però si sono lasciati, cerchiamo di evitare. Senta, ma ti è capitato di sentire che gli facevi dire cose che non avrebbe voluto dire? Sì. Sì? Insomma, sì. Sei stata aspettata, spesso. Diciamolo. Sì, Marco, guarda così. Marco, però, tutto o niente è il titolo del libro, ma è anche un manifesto di vita. Tu l'hai rispettato, no? Sempre, Ho sempre cercato di rispettarlo. Credo... hai mai fatto compromessi che ti hanno fatto dire non tutto o niente, ma un po' e un po'? No, nel mio mondo l'ho rispettato, devo dire. Ecco, nel mondo del calcio, appunto, è un mondo affascinante, però è spietato. Si può essere tutto o niente quando non si è più campione del mondo? Si può essere tutto o niente sempre, se segui questa linea, però paghi il tutto o niente. E tu l'hai pagato molto, no? Abbastanza. Ma ti piace pensarti così o sei così? No, io sono così. Tu sei così. Penso di essere così. Ecco, magari, sai perché te lo chiedo? Te lo chiedo perché abbiamo trovato un filmato quando eri a casa tua a Torino. Sara, che era piccola, aveva 5-6 anni, senti un po', era vicino a te, senti un po' com'è andata? Com'è il tuo rapporto con la gente? Ma io sono un tipo... abbastanza difficile da capire, sono abbastanza generoso, abbastanza buono, ma molto introverso, e per capire come bisogna conoscermi bene. Sara, quante bugie sta raccontando il papà? Tre. Quali sono? Quali sono? Che è introverso. È una bugia? Che ci vuole tanto per capirlo e che è buono con la gente. Ma non sono buono, no. Secondo me l'ha detto in maniera positiva. Ah sì, l'ha detto in maniera... Mamma mia, ti ha smascherato da subito, insomma. La cosa più bella però di quel filmato, e che purtroppo non si può vedere alla radio, è la faccia che fai, Marco, perché sei sorpresissimo dalla sicurezza con cui Sara contesta tutte le tue affermazioni. Quindi non diciamo sorpreso, che è sempre stato non così. Sorpreso, impaurito. Quindi un rapporto difficile e complicato fin da quando aveva 5 anni. Sì, ma comunque un bel rapporto. Tu hai scritto che questo libro, Sara, per te è stato anche feroce. Ma feroce quando? Beh, feroce quando mi sono messa nella condizione di ascoltare le sue risposte. E perché, perché feroce? Perché quando vai a riaprire magari dei ricordi, no? Che avevi rinchiuso in una scatola, riaffiorano... Rinchiuso o rimosso? Rimosso, rimosso, sì, è più esatto, si capisce meglio. Rimosso, poi devi un po' anche lottare con i sentimenti che ricominciano. È una bella avventura. Ecco, sì. Marco, io vorrei ritornare con te alla tua determinazione con cui volevi farcela diventare un campione, che è descritta molto bene. Nel libro si sente questa grande forza, ma anche tanta paura di essere inadeguato, di non farcela. Perché? Beh, lo racconto nel libro, io provavo, ho sempre provato, sempre tentato contro tutto e contro tutti di giocare a calcio, ma la mia fisicità non me lo permetteva tanto. Cioè era un problema più anche fisico, più mentale o che cosa, Marco? Fisico, che poi si trasformava anche in mentale. Fisico perché eri magrissimo. Perché ero magro, perché tutti mi rifiutavano per la mia magrezza, insomma, che non avevo il fisico adeguato per fare il calciatore. E di conseguenza diventava anche mentale. Certo. A volte ho odiato anche i miei genitori. E che ti dicevano che eri troppo... perché ti avevano fatto male. Senti, ma c'è stato un momento preciso in cui invece hai capito che era fatta? No, mai. Mai? Mai. Mai. Questo no, non c'è mai stato. Quindi e forse è stata la mia fortuna. Fatta, non è mai fatta. E non è mai fatta. No. Arrivare a giocare a calcio è abbastanza facile, anche se per me è stato difficile come tanti altri ragazzi. Però mantenerlo è la cosa determinante. Ecco, Tardelli, ma tu hai vinto tutto, però stai dicendo che la soddisfazione completa non arriva mai. È proprio così, sempre. Ma è la molla quella. Ma sicuramente. Io ho vinto un mondiale e 3 ore dopo stavo pensando a cosa dovevamo fare per sostenere questo mondiale. Certo, giustamente. E questo era ti toglieva la soddisfazione di averlo vinto. È per te, Sara, anche per te così? Beh, abbastanza. Anche cioè, assomiglia a tuo padre in questo? Scrivendo questo libro mi sono accorta che assomigliavo a mio padre, che aveva ragione mia madre ogni volta che quando litighiamo mi diceva: caspita, sei proprio identica a tuo padre. Te ti offendevi oppure eri contenta? Ma non le davo retta, perché alle mamme raramente si dà ragione. No, ma tu non l'hai retta a nessuno, esatto. In generale. Marco, nel libro c'è una cosa che tu dici che mi ha colpito molto. Quando facevi il cameriere, lo facevi male, lo facevi controvoglia, hai pensato, lo scrivi tu, se non riesco piuttosto svaligio una banca, ma qui non ci resto. L'avevi identificata la banca da svaligiare o no? No, a parte che mi hanno svaligiato le banche dopo. Sì. Però è una frase che avevo detto a mia madre. Eri pronto a tutto. Pronto a fare proprio a tutto, no. Però era una battuta che avevo fatto a mia madre. Mia madre mi ha detto: guarda che se viene la polizia io non verrò mai a trovarti in galera. Hai avuto paura. Una iena pazzesca. Ma senti, ma quanto hanno contato i soldi nella tua vita? Poco. Poco. Devo dire poco. Hai guadagnato tanto, però ne hai persi anche tanto per colpa di un tuo fratello, se non so male. Ma per colpa mia più che di mio fratello. Sì, forse no, l'ho letto nel libro. Sì, ma forse sono stato. Hai scritto una bugia anche sono lì. Non ho scritto una bugia, ma sono stato probabilmente anch'io un po' superficiale. Ma ci hai messo molto a perdonarlo? No? Beh, io lo amo mio fratello, non è che posso. Beh, sarà stato un momentino. Sì, un momentino di difficoltà c'è stata. Ma poi la nonna ha amalgamato tutto con le sue minacce. Ah, ho capito, forse i minacciati gli ha fatto fare la pace. Sì. Avevano paura. Senti, torniamo a quella sera dell'82. Dopo la vittoria del mondiale è cambiata anche la tua vita personale. Però ne parliamo dopo di questo. Prima vorrei sapere com'è andata con Boniperti e la Juve. Sei andato via dalla Juve perché hai litigato con lui? Ma non ho litigato con lui, io avevo delle idee, io volevo da lui un padre, che lui fosse un padre per me, che mi raccontasse la cosa in maniera diversa, no? Perché io, a me piaceva giocare a calcio, mi piaceva giocare in un ruolo, lui aveva capito che non potevo più farlo e mi voleva mettere in un altro, e aveva ragione lui quindi... Però volevo un Boniperti che te padre. Lo spiegasse di più, insomma tu dici era uno che non amava i giocatori, hai detto in un'intervista. Ma perché non li amava? Probabilmente non l'ho detto in un'intervista di tanti anni fa, adesso non lo penso più, perché nel libro gli do anche ragione su un fatto che è accaduto, su quello, il contratto, cioè l'avvocato vi parlava? Abbastanza, abbastanza, lo trovavamo quasi tutte le settimane. E ci capiva proprio tanto di calcio? Gli interessava, gli interessava, non so se gli capiva, a lui piaceva vedere i gol, piaceva vedere la qualità. Il bel gioco. Sì. Senti, ma nello spogliatoio chi comandava? Beh, io credo che fossero i senatori, Zoff, Bettega, in maniera diversa. Ma si parla molto dell'importanza dello spogliatoio, è vero, è così? Assolutamente, io credo che lo spogliatoio sia il luogo vincente della squadra. Senti, ma più o meno adesso di prima? È sempre uguale? Prima era di più, era più importante lo spogliatoio. Adesso perché ci sono i giocatori erano più legati alle squadre per via dei contratti anche, ma erano più legati fra loro perché probabilmente non c'erano gli agenti. Appunto, sì, perché c'erano i cartellini fissi. Certo. Ecco, oggi questi spogliatoi sono spesso delle torri di Babele, ci si capisce poco per via anche delle tante nazionalità. Ma in che lingua parlavano gli allenatori? Di oggi? Ma io credo che io sono stato all'estero siamo riusciti a farci. No, gesti no. Piano piano si impara, non ci vuole tanto se uno ha. Il linguaggio tecnico, certo. Ma tu hai lavorato molto con Trapattoni. Trapattoni si sapeva spiegare bene con i calciatori? Ma aveva una mimica fantastica lui. Poi conosceva anche un po' di inglese. Senti, ma chi è lui l'allenatore che ti ha insegnato di più? Beh, io credo che Biarzotti sia quello che mi ha dato veramente, veramente tanto. Ma tra Maradona e Platini chi è stato più difficile da marcare? Beh, sono due giocatori diversi. Maradona, secondo me, era più facile da marcare, ma più difficile, perché mi spiego, Platini quando ti vedeva arrivare dava via la palla, era fantastico. Invece Maradona ti affrontava e la riuscivi tentava anche, dribbling. Tentava e riuscivi a dargli anche qualche calcio a Platini. No. Senti, il più grande dei due chi è stato? È una bella domanda. Io, dai, che lo sai. Io credo che Maradona sia stato il più grande giocatore del mondo. Senti, ma tu l'allenatore poi l'hai fatto quasi per caso. Ti è piaciuto? Sì, abbastanza, soprattutto nel settore giovanile della quando stavi alla nazionale. Ma se ricapitasse, lo rifaresti? Assolutamente. Lo devo rifare. Ma lo devi rifare. Certo. Allora, cerchiamo un ingaggio. Ma per un grande campione non è quasi impossibile diventare un grande allenatore? Non c'è una passione troppo. No. Guarda, l'unico pericolo che c'è è che tu pretenda dai tuoi ragazzi quello che facevi tu. Infatti. Ma ti passa dopo sei mesi. Se capisci che non è possibile. Ma quanto conta l'allenatore? Beh, io credo il 20-30%. Ma Zamparini, per esempio, al Palermo quest'anno ha cambiato 5-6, non so quanti. Ha senso? Secondo me ha senso se lui va in panchina a fare l'allenatore. Senti, ma tu dici che il calcio di oggi va rifondato da zero. Perché? Perché credo che abbia perso credibilità e me lo dimostra la gente tutte le domeniche che non va allo stadio. Ma Tardelli, senti, ma è corrotto il calcio di oggi? Diciamo che ci sono state cose che si potevano evitare anche da parte dell'istituzione. Tutto niente, uno di tutto niente, dica qualcosa. Beh, è corrotto si, o no? Si poteva evitare per esempio Parma, quello che è successo è malato, a Parma. Dai, non corrotto ma malato. È malato, vabbè. Ha senso pensare a una Lega Europea invece che ai campionati nazionali? Oramai no, i campionati nazionali secondo me ci devono restare. Restare. La Lega c'è già, la Champions sì, League, no, lo UEFA, so, però... ma pensavo il campionato principale. Oggi è tutto più veloce, però anche i giocatori sono più atletici. Perché sono cambiate le diete, gli allenamenti? Che cosa? No, sono cambiati gli allenamenti. Io credo che anche i giocatori di una volta, se avessero... Cioè i grandi di ieri potrebbero essere grandi anche oggi. Sono più grandi di oggi. Naturalmente. È chiaro. E tu, quando hai deciso che era finita? Cos'è che ti ha fatto fare click? Quando mi allenavo e mi divertivo e quando giocavo la domenica e non mi divertivo più. Capito. Senti, comunque quella sera dell'82, del luglio dell'82, l'abbiamo detto, anche la tua vita personale è cambiata. Hai incontrato la giornalista Stella Pende che poi ti ha dato un figlio, Nicola. Ecco, come hai fatto a dirlo a Sara? Anzi, Sara, me lo racconti tu come te l'ha detto? No? Ma intanto me l'ha detto Stella, non lui, perché ovviamente dov'era in ritiro. C'è sempre questa exit strategy nella vita di mio padre, almeno fino a un certo punto. E niente, lei aveva pensato bene di seminare per casa dei libretti con scritto, non lo so, quanto è bello avere un fratellino, ma com'è bello che la famiglia si allarga, mamma mia, le sorprese vanno prese con positività. E alla fine non ne potevo più di queste pantomime, sì, e le ho detto, Stella, guarda, puoi anche finirla di disseminare questi libretti, ho capito, sei incinta, domani ti dico se sono contenta o no. Eri contenta domani? Sì. Sì, beh, senti, poi Sara, c'è quell'episodio di cui parlano tutti, l'episodio di Moana Pozzi, il grande sex symbol degli anni '80, che in un libro ha dato 8 a tuo padre come amante. E mezzo. Sarà... È andata bene, mi pare proprio sì. E mezzo. Abbiamo invidiato 8 e mezzo, scusa. C'è stato il mezzo. Ma io ho trovato 8, papà, poi adesso c'è. Senti, ma che effetto ti ha fatto leggerlo? Perché l'avrai letto a età diverse, no, quindi io l'ho guardato, che l'effetto sia diverso. Io l'ho guardato, l'ho saputo da un programma televisivo, quindi non l'ho assolutamente letto perché non leggevo Moana a 16 anni, leggevo altri libri. E lì per lì sono rimasta abbastanza sconvolta. Poi però diciamo che nella vita i problemi sono altri, che in fondo Moana, mettendomi nei panni di un uomo, perché uno deve anche mettersi nei panni degli altri, dico... Ti viene facile, metterti nei panni degli altri? Dipende in quali panni devo mettermi. Senti, nel libro tu scrivi, a proposito di questo, scrivi: Marco avrebbe preferito strapparsi le unghie piuttosto che affrontare l'argomento Moana. Beh, vedi ce l'hai tu. Fatto. Beh, ce l'hai fatto, insomma... Convincio sempre con quell'aggressività che ti contraddistingue. No, perché un po' bastone e carota, un po' figlia romantica che pende dalle sue labbra e poi a un certo punto improvvisamente basta, mi rifiuto di scrivere un santino, io non lo faccio questo. questo libro. E allora lo provocavo e lui parlava. Senti, ma non ha mai creduto nel santo di suo padre. Non ha mai creduto, no. È fatto bene, per fortuna. Che noia, senti, ma, no, dai. Ma la tua vita sentimentale, Marco, un po' inquieta, diciamo, ha inciso nella tua carriera oppure no? Ma io credo che un pochino sì, ma abbia... penalizzato, penalizzato, nel senso ti che, ha penalizzato, però sono gli altri, dagli altri, penalizzato gli altri. Però sono felice della mia vita sentimentale, perché ho avuto tre donne, io ho ancora certo. La terza ci arriviamo. Si chiama Laura. Anche a Laura. Una cosa drammatica però che ti è capitata nella tua carriera è stato all'Ajax in Belgio, quando avete giocato la finale della Champions, avete vinto in mezzo ai morti sostanzialmente, festeggiato nella tragedia. Sentiamo qua cosa mi hai detto qualche anno fa. Proprio necessario andare a festeggiare dopo la finale sotto la curva? 25 anni fa forse sì, adesso ne ho 25 di più e non dovevamo farlo, l'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa. Ma oggi che cosa le resta di questa partita? Adesso niente. Ecco, hai chiesto scusa per cosa esattamente? Ma no, che avevamo fatto il giro di campo con la Coppa. E... Ma voi lo sapevate o no? Non lo sapevate? No, noi sapevamo che io per esempio ero negli spogliatoi, eravamo usciti, e sapevamo che c'era stato qualcosa, io sapevo di uno o due morti, che poi non cambia, sono tanti, certo, uno o due sono uguali, però... Era una tragedia iniziata la mattina che nessuno è riuscito a fermare. Senti, ma oggi ti senti juventino oppure no? Guarda, io sono un grande amante del calcio. La Juventus mi ha dato tantissimo, io ho dato tanto alla Juventus. Guarda che siamo a tutto o niente. Il libro si chiama Tutto o Niente. Infatti, anche prima parlavi di Mona Pozzi, Tutto o Niente. L'ha saputo dalla televisione. Ha preso tutto. Adesso volevo sapere se sei juventino o no. C'ho dentro qualcosa della Juventus. Madonna. Ma sembra un democristiano, altro che tutto o niente. Senti, Sara, torniamo a te, al tuo punto di vista nel rapporto con tuo padre. Con molta sincerità, devo dire tutta sincerità, scrivi: i suoi amori rendevano difficile l'intimità del nostro rapporto, come se sul più bello fosse tutto da rifare. Cioè, non gli bastavano mai le famiglie, avevi quella sensazione lì che eri provvisoria? Sì, una grande precarietà affettiva, familiare, no? Ma poi però ho capito che in realtà se tu lavori sui rapporti, e spesso magari in una famiglia, per semplificare, io odio questo termine, tradizionale, dai per scontato una serie di cose, mentre invece quando... devi conoscere gente che prima era sconosciuta, invece riesci a costruire magari delle cose più mature, dei rapporti più maturi. Quindi questa grande famiglia allargata oggi in realtà sta in piedi grazie a chi soprattutto, Marco? A me, alla mia pazienza. Bugiardo. Alla mia pazienza. Senti, ma e quanto hai inciso il rapporto con tuo padre, il tuo rapporto uomo-donna? Cioè praticamente l'immagine del principe azzurro è morta prima di nascere. Sì, ma poi soprattutto io non ho mai avuto immagini. Babbo Natale, non mi hanno mai fatto credere a Babbo Natale, figurati al principe azzurro mio padre, se poteva assumersi la responsabilità, certo, di farmi credere. Esatto. Senti, ma oggi che sei una donna libera, autonoma, lavori e hai la tua vita, tuo padre ha accettato facilmente questa tua autonomia o no? No. Ah, no, cioè, lui credeva di sì, perché ha sempre predicato che io diventassi super autonoma. La predicava per sé? No, ma secondo me diceva tanto non ce la fa, quindi come col libro, no? Cioè che all'inizio era tutto ok, poi quando ha letto la prima stesura gli è preso il panico, è stato questo lo stesso con me. Posso entrare come è entrata lei quando era bambina, sì, eccetera. Ho sempre creduto che lei ce la facesse. Va bene. Senti, sentimentalmente l'hai un po' rieducato o no? Spero di, secondo me per certi aspetti sì, ma c'è ancora tanta strada da fare. C'è ancora tanto tempo da fare. Sbrigati, davanti. Senti, hai scritto che quando hai conosciuto Laura, appunto, la terza, a Marco, a tuo padre, gli hai detto: lei è l'ultima, nel mio cuore non c'è più spazio. Davvero gli hai detto così? Ovviamente di spazio nel mio cuore ce n'è ancora per tante persone che spero di incontrare. Però ho capito che dovevo un attimo intervenire e dargli una direzione chiara. Sì, anche a nome di mio fratello, ovviamente, in quanto sorella maggiore. Senti, Marco, ma può stare tranquilla Sara? No, su questo punto. Assolutamente. Sì, assolutamente sì, o assolutamente no? Sì, assolutamente sì. Senti, adesso nella vita però siete concorrenti e la guerra forse potrebbe ricominciare da quella dei 4 anni, perché Sara, tu sei al processo del lunedì, a Rai Italia, cioè fai la tua carriera nello stesso settore. Tu Marco fai il commentatore, l'opinionista in attesa di fare di nuovo l'allenatore di calcio. Chi è più bravo? Io. Tu sei più brava? Certo. Perché? Sono molto più simpatica e poi ho avuto un grande maestro. Ah sì, brava. Senti Marco, tu sei d'accordo che è più avuto, brava lei? Che ha avuto un grande maestro è vero, perché sì, ce l'abbiamo qua davanti. Vabbè. Tu non Marco... sei stato il suo maestro? No, no. Non lo so. Se tu prende le distanze. Marco, tu sei Dimmi. D'accordo che è più brava lei? Non ci sono dubbi, guarda, io se sono assolutamente d'accordo. È meglio d'accordo. Non discutere È su meglio questo. Non discutere. Stiamo tranquilli. Senti, faccio un'ultima domanda però. Non è che il prossimo libro, che naturalmente scriverete insieme, purtroppo sarà intitolata O io o lui? No. Ma siamo pronti, stiamo già affilando i coltelli. Ah sì, è sì, pronto? Sì, sì. Si riuscirà a scrivere solo la prima pagina? Va bene. Penso di sì. Auguri a voi e al libro. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Beh, tra i tantissimi sms che abbiamo ricevuti, una è divertente. È per te Marco, che è rimasto qui con noi, Marco Tardelli. Aspettami, sarò la quarta donna, sottinteso. Che bello risentire la voce di Sara Radio 24. Francesco da Brescia, un fan. Minoli dice: Maurizio Urbano, lei tifa per il Torino. Mi dispiace, non ha capito proprio niente. Ma da molti anni che dico che sono juventino. E va bene. E intanto sentiamo la canzone di Pietrangelo. You've been through. Take my money, my cigarettes. I haven't seen the worst of it yet. Pietrangelo, oggi... Allora è successo che un grande fiume oggi ha preso posto in metropolitana. Era un fiume che è arrivato con le comitive in viaggio dall'estremo oriente, ma non era il Gange, ma un fiume sotterraneo, curioso di visitare l'isola Tiberina, da dove assistere al passaggio della signora Rosselli in Maggiolone. Insomma, ha chiamato Mattia Pascal, ha voluto questo brano e l'ha voluto dedicare a Marta Abba. Allora Mario, che dici? Marta Abba, eh? Tanto qui continuano a scrivere, Marco, continuano a scrivere. Battuta mancata, Tardelli coltelli, capito? Sono stati percepiti come due, due antagonisti. E invece sono. I Tardelli mi hanno emozionato. Minoli troppo dolce, complimenti. Oddio. Francesco, ma sei insomma, dolce, ma dice qua. Minoli troppo dolce, non ci credo. Marco, c'è che scritto, dici? No, dai. Allora Mario, vai, va. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water. Mario. E questo è un bel pezzo dei Dire Straits, Water of Love. Ti piacciono i Dire Straits, Marco? Moltissimo, ti ricordi? Gran gruppo, sì. Giusto. Ma la tua musica preferita qual è? Tu ne ascoltavi tanta. Ma io ne ho sempre ascoltata tanta e di diverso tipo. Però Bruce Springsteen era uno che mi appassionava. Bravo, buon gustaio. Va bene, lo prendiamo nel club. Water of Love, in fondo parliamo d'acqua. Ti ricordi che il famoso referendum sulla pubblicizzazione? Certo, l'acqua, Giovanni, referendum dimenticato, che, se non mi sbaglio, sì, per 2 anni e rotti non è stato fatto niente da nessun governo. Ora dico subito, io sono di parere contrario, ma non Vabbè, fa niente, non importa, il tuo stiamo parere. Al fatto no, il mio parere non conta mai. No, conta sempre, lo dai sempre, non ti preoccupare. No, però è interessante perché oggi E discutono alla Camera la proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, non che l'avessero privatizzata in realtà, perché se poi andate a vedere i bilanci di tutte le società pubbliche che hanno gestito l'acqua in svariate metropoli d'Italia, beh, insomma, un Groviera è molto più compatto, direi, in tutti i sensi, perché poi ci sono anche non solo le perdite di bilancio, ma le perdite sulle condutture, che sono enormi, non immaginate quanta acqua sprechiamo. Però, a parte lo sfascio delle gestioni pubbliche, è interessante il testo, perché il testo della relazione introduttiva presuppone un obiettivo, insomma, sul quale bisogna riflettere, perché certo, dice che bisogna stabilire che la gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente a enti di diritto pubblico. E quindi solo le mani dello Stato, o forse al limite delle società miste pubblico privato. Quello integrato, però. Sì, vabbè, però sai, poi alla fine deve essere integrato, se no l'acqua non arriva. Se no è disintegrato. E ce ne sono tanti. Tenetela d'occhio questa cosa qua, perché può darsi che c'è un referendum che ha una conseguenza. Perché ricorderete che fu abolito il Ministero dell'Agricoltura, ma il Ministero dell'Agricoltura c'è, ancora, e così tante altre cose. Quindi, anche le province sono state abolite, ma ci sono ancora un po'. Non c'è problema, va bene. Marco, l'unica cosa non abolita è il calcio. Hai visto? Marco, secondo me bisognerebbe stopparlo anche. C'è una Rita Leli che dice: Marco, Minoli ti voleva sottrarre lo 0,50 di prestazione. non era 8:30. Va bene, vado col salamino. Gli esami non finiscono mai, e non solo per alunni, allievi, scolari o studenti che dir si voglia, ma anche per gli insegnanti, un esercito sottoposto alle più pesanti responsabilità e però privato di munizioni, contraerei e promozioni. Insomma, è la meravigliosa buona scuola di... la meravigliosa buona scuola di Matteo Renzi e la riforma in assoluta più voluta dal leader che tutto il mondo ci invidia, per cui la domanda che ci domandiamo, se tutto il mondo ce l'invidia, perché non se lo prendono? Detto ciò, giorno 28 aprile, il prossimo 28 aprile ci saranno gli iscritti per il concorso a cattedra. Gli orali, mi confonde sta buona scuola, insomma. Gli orali, vabbè, gli iscritti. In estate, ma di solito non si fa il contrario, però sta buona scuola di Renzi è orale così, era così, certo, sì, poi si deve fare al contrario, ma comunque che volete, ma questi hanno Giannini. Riformato la Giannina. Non è la Maria Elena. No. Non è quella lì. No. Non è quella lì. Ma non è suo papà? No. Sì. Burlava, no, non è possibile, dai, Pietrangelo. Avevamo un lavoro. Ma no, vabbè, non si può più. Mi sono confuso. Ma hai letto l'intervista al Corriere della Meli? E siccome no, ha spiegato. Ha messo tutti in riga. Tu sei in riga, vai. È la signora maestra. Ma è la buona scuola che vince da lì. La buona scuola con la buona maestra. Quella è la linea, eh? Me l'abbiamo capito. L'abbiamo capito, Mario, bravo Mario. È il partito della capa. Allora, insomma, è riforma sia, però tutta sta riforma, tutta sta buona scuola si scatena in una teoria che non è una teoria di Salotti, come nelle descrizioni di, che so, nel Gattopardo o nei Viceré, ma una teoria di errori, e musica si impone. 91% dei candidati di storia dell'arte, e si parla di arte in Italia, non riuscirà a passare. Troppi sono. I tempi poi si allungano perché gli insegnanti si ritrovano ad insegnare materie che non conoscono. Molti precari di lungo corso sono tagliati fuori dal ruolo e in 1700 istituti in Italia il preside, scusate, dovrei dire il dirigente scolastico, è un reggente. In un solo quadrimestre, 12 insegnanti diversi, uffici scolastici che riformulano le convocazioni in base all'ordine alfabetico e non anagrafico, per cui tutti gli abate fortunatissimi sono. Gli stipendi sono i più bassi in Europa e gli esami non finiscono mai, per cui l'unico inno possibile resta quello di Natalino Otto rivisitato da Renzo Arbore. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. professore, io non lo sono di Carelli. E sentiamo Massinelli, dimmi un re degli assinelli, dove sono i Dardanelli? Vabbè, è una buona scuola, l'abbiamo sistemata. Ma gli piace anche Arbore, secondo me, a Tardelli. Cioè, molto, molto. Vero. Clarinetto. Mi ricorda le serate. Mario, basta. Dalla so. Regia, le donne, scusa, della regia, io, non perché, sono d'accordo. Ma figurati, guarda. Hai capito? Allora, dai, vai con la bolla. Super pezzo questo, Te li ricordi, Marco, questi Genesis? Sì. Ti ricordi sempre, è passato qualche anno. Vabbè, ma piacciono anche a me, che insomma non sono proprio ancora così da rottamare, anche se non si sa. E Giovanni, oggi è giornata di mozioni di sfiducia, secondo me è molto interessante in Parlamento, perché ci sono due mozioni di sfiducia, che una dei 5 Stelle e una di Forza Italia, che derivano tutte dallo scandalo Tempa Rossa, sempre di petrolio si parla e così via. Il dibattito riparte da là, sostanzialmente. La cosa interessante è andarsi un po' a leggere, come sempre, guardare le carte, vedere i documenti, esatto, e scoprire che quella dei 5 Stelle è una mozione di sfiducia, come dico sempre io, in questurese, cioè scritta sull'onda dei verbali dell'inchiesta giudiziaria, e su quello punta, diciamo, a quel tipo di impostazione. Quella di Forza Italia ha qualche sfumatura politica che rivela un po' di Sassolini da levarsi dalle scarpe. Insomma, c'è un sottofondo politico. Beh, perché c'è un passaggio meraviglioso, secondo me, politicamente, su Denis Verdini. Ah, su Verdini. Leggi un po'. E dicono sostanzialmente, allora, leggiamo insieme il testo. Dai. Il governo si regge su una maggioranza diversa rispetto a quella da cui ha ricevuto la fiducia in occasione del suo insediamento il 22 febbraio 2014. Il gruppo Alleanza Liberal Popolare Autonomie, composto attualmente da 19 senatori, ha ufficializzato il suo debutto nel luglio del 2015. Insomma, sorto dalle ceneri, lo scrivono loro, sorto dalle ceneri del patto del Nazareno, con la dichiarata intenzione di tenerlo comunque in vita per sostenere il governo, Renzi è diventato il pendolo della maggioranza di governo. Quindi si dice, è cambiata la maggioranza, bisogna sfiduciarlo e farlo cadere. Secondo me è molto rilevante dal punto di vista del significato politico. È come politico. Dire, c'è Verdini lì che ci rappresenta, e può stare un passo dentro, un passo fuori. Sì, però, dicono che deve cadere. Insomma, mettono d'accordo. Quello lo dicono per scherzo, ho l'impressione. E non si scherza mai con la mobilia. Mai. Canzoniere. Donna me prega, perché io voglio dire d'un accidente che sovente è fero ed è sì altero che è chiamato amore, sicché lo nega possa il ver sentire. Ora vediamo se con la buona scuola lo indovino. Cioè, facciamo un aiutino subito, va, prima di dare il numero. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, aiutino. Allora, si studia al primo liceo, cioè che corrisponde al terzo anno del liceo. Io dicevo, insomma, primo liceo classico. Vabbè, un aiutino, cioè, che non quarto, aiuta. Quinto ginnasio e poi primo liceo. Non aiuta, pubblicità. Mix 24. Ebbi la sensazione che tutto fosse perduto. Camminai per miglia e miglia attraverso edifici vuoti. Nel calore intenso della città si aggiravano due soldati a cavallo che guardavano qua e là. La desolazione era totale. Migliaia di persone erano riunite in piazze e parchi, mentre il fuoco infuriava indisturbato dappertutto. Altri guardavano dai tetti di Telegraph Hill, di Russian Hill e di Nob Hill. Sembrava, in quel momento, che non ci fosse più nulla da fare se non guardare. Sembrava che in quel momento non ci fosse più niente da fare. Così Jack London, il geniale scrittore americano, descrive San Francisco, la sua città devastata dal terremoto. 18 aprile 1906. Ore 5 e 12 minuti, la Terra trema per 40 interminabili secondi. È un sisma di magnitudo 8,3. La potenza scatenata è paragonabile a quella della bomba atomica su Hiroshima. Al crollo degli edifici segue una serie di terrificanti incendi. La città brucia per 3 giorni. Gli abitanti, quasi tutti emigrati, sono 400.000. Ne moriranno più di 3.000. Ancora oggi, fra i tanti miti di una città straordinaria come San Francisco, c'è il Big One. Il terrore che la faglia di Sant'Andrea possa di nuovo provocare un terremoto spaventoso come quello di 60 anni fa. Terrore a San Francisco, le testimonianze inedite, i documenti, i segreti e ancora le lacrime, ma anche il coraggio e la caparbietà di chi volle subito ricostruire una nuova città. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. C'è Nicola da Milano. Nicola? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora? Io ritengo, mi sembra dal dolce stil novo del 1300, mm-hmm. Guido Cavalcanti. Giusto! Accidenti, giusto. Bravissimo! Bravissimo! Ma che fa di bello Nicola a Milano? Io sono ingegnere in pensione e ci eravamo già sentiti in corso. Ah, continua a indovinare questo? Sì, purtroppo sì. Per fortuna sì, vuol dire la sua cultura spazia. È il liceo classico dell'Aquila. Bene. Grazie. La prossima volta allora. Mario, c'è un aggiornamento? Sì, nostro amico. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Beh, secondo me questo consiglio di Gordon Gekko andrebbe bene anche nel governo. Sì. C'è Padoan che sta facendo un'audizione in Parlamento. Mm. Ha detto che il calo del debito è fondamentale per la fiducia dei mercati. Io dico e te credo, perché è in salita a febbraio, 2.215 miliardi più 21,5 miliardi di euro rispetto a gennaio. Il debito è la nostra più grande urgenza e va tagliato. Poi sul come si può anche vedere. Come non è chiaro però. Vabbè. Bisogna tagliare le spese. Vabbè, bisogna tagliare la spesa corrente, va bene. Privatizzare. Adesso privatizzare. Invece in Parlamento pubblicizzano. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine febbraio 2016. SMS per migliorare l'aderenza alla terapia. Un SMS al giorno toglie il medico di torno? Il titolo di questo articolo ha una componente scherzosa, ma il problema è un problema serio. Perché dovete sapere che chi di voi che ha una patologia cronica, pensate all'ipertensione, una per tutte, in genere, quando va bene, fa la terapia correttamente nel 50% dei casi, quando va bene. Quindi solo uno su due si tratta in modo adeguato. E allora ci sono stati vari studi che hanno provato a vedere se le tecnologie moderne, la telefonia, i cellulari ne sono una di queste, quindi con la possibilità di trasmettere SMS che ricordino la necessità di assumere la terapia, aiutano ad essere più aderenti alla terapia stessa. È stata fatta una meta-analisi di 16 studi con oltre 2.500 pazienti che avevano delle patologie croniche, sono questi i pazienti più riottosi. Patologie croniche come la cardiopatia ischemica, l'asma, l'epilessia, la rinite allergica. E si è verificato l'efficacia dell'SMS nell'aderenza alla terapia di questi. 5 studi avevano messaggi personalizzati per il paziente, 8 permettevano di rispondere all'SMS, quindi un va e vieni di rapporto, e 8 erano semplici richiami giornalieri. Il risultato è confortante, funziona. Mandare un SMS allerta le persone e fa sì che assumano la terapia più correttamente. E c'è anche la soddisfazione, una volta tanto, che quelle teste chine sul cellulare non stiano semplicemente facendo una chat più o meno inutile, ma stiano recependo un'informazione preziosa. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi che cosa ci propone? Oggi una canzone per chi combatte quell'assoluta lotta tra amore e tempo e risolve affollando la mente di baci. Edoardo Bennato, Una settimana, un giorno. E vai. Sensazioni che affollano la mente, sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Oh no,